Savonarola, il frate che solennizzò Firenze, prose scelte, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, che fu testimone dell'invenzione del motore a scoppio che permetteva di emancipare dai cavalli il guidatore di carrozze, e lette da me, che sono testimone dell'invenzione del computer che permette all'automobile di emanciparsi dal guidatore ma non dal motore a scoppio. D'altra parte, in mancanza di cavalli gli asini trottano e comunque, quando il cesso è troppo pieno, gli scoppiano i doccioni. Serio. Capitolo 28. Il mirandolato. Ma per tornare finalmente al corso della interrotta narrazione, con le prediche sopra Amos e Zaccaria, la fama della nuova dottrina s'era sparsa in tutto il mondo. Molto se ne parlò in Oriente, dove il Gran Sultano, per leggere quelle prediche, le faceva tradurre in turco. Di Francia, di Germania e d'Inghilterra venivano al Savonarola lettere di nuovi seguaci che la lettura dei suoi sermoni gli aveva acquistati. E nel medesimo tempo i principi italiani gli scrivevano, muovendo contro di lui aspri lamenti, giacché ognuno d'essi, o per falsi rapporti o per avere poca tranquilla coscienza, si credeva personalmente preso di mira nelle prediche che egli faceva contro i vizi e contro i tiranni. Principalissimo fra questi era Lodovico il Moro, che scriveva al Savonarola la sua vita essere tutta pura, tutta cristiana, onde non vedeva perché dovesse così di continuo essere accusato da lui, al quale piuttosto si poteva far grave rimprovero del suo dire che non si deve obbedire al Papa. Il Savonarola non lasciava questa lettera senza risposta, ma gli scriveva in data del 25 aprile, serbando il rispetto dovuto ad un principe e tenendosi nello stesso tempo in una dignitosa riserva verso quell'uomo, cagione di tanti danni all'Italia e così fiero nemico della Repubblica. Non è vero, egli diceva, che io abbia mai detto assolutamente che non si deve obbedire al Papa, perché questo sarebbe assai reprensibile e contrario a quei sacri canoni secondo i quali mi sono sempre governato. E così ancora per darmi carico è stato falsamente riportato che io ho sparlato di vostra signoria. Io sono affezionato a tutti e non debbo parlare di alcuno in particolare, che se la vostra signoria è verso Dio di quello animo che dice non deve fare altro che perseverare, né in questo si può avere giudice migliore della propria coscienza. Per le stesse ragioni e nel medesimo modo doveva il Savonarola scrivere a Galeotto Pico, principe della Mirandola, che allora tiranneggiava crudelmente i suoi stati e credevasi perciò anch'egli preso di mira nelle prediche. Il frate smentiva di nuovo queste accuse personali, ripeteva che il suo ufficio era solo di annunziare il flagello e raccomandare ad ognuno di fare penitenza. Quel principe era fratello del famoso Pico della Mirandola e padre dell'altro che fu biografo del Savonarola, ma per indole assai da loro diverso. La sua vita fu piena da crudeltà ed egli tenne lungamente prigioni nel fondo d'una torre un fratello e la madre, onde il Savonarola, mutato di poi linguaggio, gli scrisse il 26 marzo 1496 una lettera assai minacciosa. Io vi conforto di convertirvi a Dio, vivere come è obbligato ogni buon cristiano, dolervi del passato e ridurvi alla pietà. Altrimenti io vi annunzio che è sopra di voi imminente un gran flagello e sarete flagellato nella roba, nella persona e nella casa vostra. Vi annunzio ancora che della vostra vita ce n'è per poco, che se non farete quel che vi dico andrete nell'inferno e questa lettera vi sarà presentata innanzi al tribunale di Dio, né vi potrete scusare. E il giovane Pico a questo proposito osserva: mio padre si trovava allora in età virile, era nel fiore della salute e poteva promettersi una lunga vita. Pure, dopo quella lettera veramente profetica, non sopravvisse che 2 anni, e da allora in poi la storia della nostra famiglia fu una lunga tragedia di sangue della quale ancora non si vede la fine. L'infelice giovane certamente non previde che egli doveva essere una delle vittime più infelici di questa tragedia profetizzata dal Savonarola. La notte del 5 febbraio 1533 veniva trucidato per le mani del suo stesso nipote. Ma di tutti gli sdegni principeschi, maggiore di gran lunga era quello del Papa. Esso faceva continui e minacciosi rimproveri all'ambasciatore fiorentino messer Ricciardo Becchi, lamentandosi non solo del frate, ma più ancora della signoria che gli aveva permesso di predicare. I 10 scrivevano e riscrivevano in sua difesa, ma il Papa ne veniva sempre in maggiore sdegno, onde, per calmarlo, si pensò a mandargli ambasciatore straordinario messer Niccolò Pandolfini, arcivescovo di Pistoia. Non appena gli fu giunta la presenza del Borgia, che questi cominciò a biasimare aspramente i fiorentini del loro tenersi sempre uniti alla Francia e non volere entrare nella Lega Santa per cacciare i barbari, ma procurare piuttosto la rovina d'Italia. Veniva poi a parlare del frate e le sue parole erano brevi, ma rivelavano un odio cupo e profondo e un'ira assai male repressa. Cercava l'arcivescovo di scusare la Repubblica nel miglior modo che poteva. Circa l'alleanza francese, gli adduceva la fede dei trattati e l'odio che i veneziani e il Moro loro avevano sempre manifestato verso la Repubblica. Rispondendo poi alle cose del frate, rammentava come la sua santità gli aveva, per mezzo di un cardinale, concesso nuovamente il predicare, onde né esso né la signoria avevano creduto di incorrere in alcuna disobbedienza. E a questo il Papa interruppe bruscamente il discorso dicendo: «Ben bene, di Fra Girolamo non ne parliamo ora, forse verrà tempo che ne parleremo assai meglio. Quanto al resto, voi non date che parole e volete tenere il piede in due staffe». Così finiva quel primo colloquio. Intanto il Papa radunava un concistoro di 14 teologi domenicani ai quali proponeva di esaminare la condotta e la dottrina del Savonarola, onde trovassero modo di condannare e punire con severità non solamente lui, ma ancora i suoi seguaci. Fu singolare però il vedere come in tutta quella radunanza di teologi la principale accusa che si muovesse contro al Savonarola fosse quella di essere stato cagione di tutto il male di Piero de' Medici, prova indubitabile, seppure ve ne era bisogno, che si trattava di un odio politico e non punto religioso. L'ambasciatore fiorentino Messer Ricciardo Becchi non restava in questo mezzo ozioso, ma, aiutandosi del favore e delle raccomandazioni di alcuni cardinali, correva per le case di tutti gli altri, cercando volgerli in favore della Repubblica e adoperandosi a guadagnare tempo, giacché per ora non si poteva fare altro.